proteggere il tuo patrimonio e farlo crescere nel tempo. Con noi puoi. CNP Vita assicura dà valore ai tuoi progetti con soluzioni assicurative di risparmio e protezione. CNP Vita assicura. Chiedi al tuo consulente o scopri di più su gruppocnp.it. Immaginate di camminare per la vostra città all'improvviso, mentre passeggiate, da un tombino esce un bambino, poi un altro, poi una ragazzina, come fossero degli zombie, e magari alcuni di loro che respirano dentro un sacchetto di plastica che si gonfia e si sgonfia. Ecco, immaginate che tutto questo sia normale. Bene, questo è quello che si vede a Bucarest, ahimè, ancora oggi. Il protagonista della puntata di oggi si chiama Milou Ukili, è un clown franco-tunisino. Questo signore ha aiutato centinaia di bambini abbandonati a uscire da questi canali sotterranei di Bucarest e a ricominciare a vivere. Milou nasce a Algeri nel 72, padre è cresciuto lì, la mamma è francese ed è proprio in Francia che si trasferiscono dopo la nascita di lui, nella periferia di Parigi. Gli Ukili hanno una casa umile ma onesta, si sarebbe detto una volta. Lui non frequenta circoli, scuole prestigiose, vive in periferia come tanti bambini, con quella spensieratezza ignara, incurante dei pericoli, anzi si impara qualcosa da quella periferia, si impara a stare lontano dai pericoli. La sua non è una famiglia agiata, anche lui deve cominciare a lavorare presto, a 17 anni fa il modello, il suo sogno però è quello di diventare un clown. Con i soldi messi da parte, Milou si iscrive alla scuola di arti circensi di Anne Fratellini, Fratellini sicuramente in Francia, e si diploma nel 92 a 20 anni. 20 anni, beh, è un'età nella quale si è idealisti, si vuole cambiare il mondo, è il momento delle grandi passioni politiche, è così anche per lui, anni che in Europa sono periodo di cambiamento politico e sociale, il muro di Berlino è appena caduto, si è sgretolato il patto di Varsavia, l'Unione Sovietica che si scioglie e si frammenta in tanti stati con paesi satelliti appunto della grande madre russa che fanno fatica a rimettersi in piedi. In quegli anni c'è un evento clamoroso che colpisce Milou, la rivoluzione in Romania nell'89. È la prima volta che può assistere in televisione a un evento simile, insomma muore dalla voglia di andare a vedere cosa sta succedendo lì in Romania, e questo è quello che spiega lui stesso in un'intervista del 2011. Per lui era la prima volta che sentiva parlare della Romania, la prima volta che aveva la possibilità di seguire una rivoluzione, l'unica che aveva studiato è la rivoluzione francese. Era molto molto curioso partire per guardare solamente. Aveva voglia di darmi un po' di tempo e di ragionare, viaggiare. Fortunatamente con una valigia di paiaccio si viaggia e si può andare ovunque, portare il sorriso, convidare il sorriso per passare un momento piacevole che posso creare dopo delle relazioni di fiducia, di amicizia che portano davanti altri proietti. Eh sì, quello che Milou vede in televisione, che tutti noi abbiamo visto alla fine dell'89, non si era visto prima, la folla che occupa la sede della TV, che dichiara la fine della dittatura di Ceausescu, questo è quello che va in onda il 22 dicembre, 10 giorni dopo l'inizio della rivoluzione, insomma all'indomani della caduta della dittatura comunista. Frasilor, mulțumim de lui Dumnezeu. Fratelli, grazie a Dio ci troviamo negli studi televisivi. Siamo riusciti ad arrivare qui con l'aiuto delle forze armate, con migliaia di studenti e con gli uomini che state vedendo. Siamo emozionati, stanchi e desideriamo che tutto il popolo rumeno e di qualsiasi nazionalità che abbia lottato con le armi in mano senta le parole del poeta Mircea Dinescu. Vor fi portatoarea genului românesc peste timp. Noi lucrăm. Peste 10 minute vom da un appello către populație. Vă rog să vă 10 minuti lanceremo un appello alla popolazione. Siete pregati di mantenere la calma. Sono momenti in cui Dio ci aiuta. Le forze armate sono con noi. Il dittatore è scappato. Facciamo un appello al ministro degli interni affinché deponga le armi. Il popolo è con noi. Il popolo è con noi. Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Suflarea română, către eroicul popor român. Victorios! Victorios! Am învins! È tutto molto strano, come se nessuno sapesse che era in atto una rivoluzione. Dall'altra parte i due coniugi Ceausescu fino all'ultimo non hanno voluto, non hanno saputo rendersi conto di quello che stava succedendo. Beh, oggi noi invece siamo abituati a avere notizie in tempo reale, contemporaneamente su 1000 dispositivi, insomma è difficile immaginare una cosa del genere oggi, ma in un regime dittatoriale come quello rumeno era la normalità. Fino al giorno prima c'erano state immagini delle rivolte nascoste dalla TV di Stato e anche durante l'ultimo discorso, il famoso tentativo dell'ultimo colpo d'ala fallito da parte di Ceausescu, erano stati tagliati i fischi e le proteste. Gran parte del paese era all'oscuro di quello che stava succedendo e la notizia della rivoluzione in Romania porta Milu a prendere una decisione che cambia la vita a lui e a centinaia di bambini. Insomma, decide nel 92, all'inizio del 92, di partire per Bucarest. E Milu decide di unirsi come volontario a una compagnia di artisti che organizza spettacoli di circo negli ospedali, negli orfanotrofi della Romania. E lui è lì da un mese quando una sera lui sta per partire, per tornare a Parigi e perde un treno. Ci ho fatto una puntata del bivio su questo treno perso, su questo momento determinante, casuale e determinante. Insomma, perde il treno, rimane qualche ora alla stazione di Bucarest. È tardi, lui pensa di essere solo e a un certo punto, come dal nulla, cominciano a sbucare dai tombini questi bambini, questi ragazzini ridotti come zombie che girano con dei sacchetti di plastica vicino alla bocca, sacchetti che si gonfiano e si sgonfiano mentre ci respiri dentro, si avvicinano a Milu, gli chiedono dei soldi. Una bambina che avrà avuto al massimo 12 anni gli offre prestazioni sessuali in cambio di pochi lei. Lei era la moneta svalutatissima rumena. Insomma, questa è una scena, peraltro, tratta dal film Paradà di Mario Pontecorvo, un film del 2008 che è ispirato proprio alla vita di Milu Ukili. Che cos'era quella roba che sniffava la bambina? Colla? Aurolac, è vernice. È come droga. Ha avuto al massimo 12 anni. Conoscono subito gli stranieri. Non so come fanno, ma non sbagliano mai. A te questa sembra una cosa normale. Non hai mai sentito parlare di prostituzione infantile? Sì, ma non credevo che fosse così. Perché? Come credevi che fosse? E quella specie di droga fai da te che i bambini inalano continuamente nei sacchetti li stordisce, dà calore, non fa sentire la fame, però l'Aurolac provoca anche gravi problemi cerebrali, problemi della crescita, e molti di quelli che sembrano bambini in realtà sono adolescenti e non riescono a staccarsi da questa colla, soprattutto di notte quando c'è freddo, quando c'è paura, perché ancora a quell'età, a dormire al buio hai paura, e insomma, quella colla non li fa crescere. Loro hanno il corpo da bambini, ma il viso segnato, gli occhi più grandi della loro età. E la fine della dittatura aveva fatto uscire allo scoperto realtà tragiche che erano rimaste nascoste dalla propaganda di regime, anche perché va ricordato che durante la dittatura di Ceausescu c'era bisogno di far crescere la potenza, la forza lavoro nello Stato, insomma c'erano state delle politiche anche un po' scellerate di incremento, di incentivi per chi faceva più figli, l'aborto era stato proibito, lo Stato garantiva un posto di lavoro, una quantità minima di cibo per tutti, e quindi in Romania bisognava fare figli perché tanto ci avrebbe pensato lo Stato. E poi non era vero, perché quando i bambini nascevano in realtà non c'era possibilità di mantenerli, le famiglie più povere che avevano fatto figli sotto la promessa di questi incentivi non riuscivano a crescerli e le strade della Romania si riempivano di orfani, bambini sperduti che diventavano un problema soprattutto per l'immagine dello Stato prima che un problema sociale. E la soluzione era sempre la stessa: orfanotrofi nazionali controllati dalla polizia del regime affinché nessuno li vedesse. E poi cade il regime, la situazione esplode, non ci sono i sussidi che erano stati promessi, i bambini scappano dagli orfanotrofi, anche perché gli orfanotrofi li lasciano quasi scappare perché non sono in grado di accogliere tutto quel numero di ragazze che stanno arrivando. Insomma, è stato aperto un vaso di Pandora e i bambini tra le strade della Romania, che sono una vera e propria comunità, e cominciano a riversarsi in una rete di canali nel sottosuolo delle città, assieme ai senza tetto, bisogna ripararsi dal freddo, ci sono questi tunnel sotterranei dove in molte città dell'ex Unione Sovietica scorreva l'acqua calda fornita dallo Stato, e allora bisogna accedere dai tombini in strada, entrare. Non è semplice perché bisogna avere l'approvazione di quelli che vivono dentro, che si chiamano i cosiddetti boschettari, i randagi, che d'estate dormono nei boschi e d'inverno vivono nel sottosuolo. Là sotto c'è un inferno. Chi c'è stato dice che sia un posto terribile, disgustoso, con i boschettari che usano le vasche come latrine, come deposito di rifiuti. E dopo aver visto quei bambini, Milun non se la sente di tornare in Francia, vuole fare qualcosa per loro, si trattiene ancora un po' a Bucarest e comincia a fare degli spettacoli di giocoleria per le strade della città. I ragazzi sono da subito il suo pubblico più affezionato, naturalmente si tengono un po' a una sorta di distanza di sicurezza, lui prova a avvicinarli, ogni volta che ci prova loro scompaiono, e allora il clown li prende in giro, cerca di coinvolgerli e nasce questa curiosità per questo ragazzo dal naso rosso che li fa giocare, che conquista piano piano la loro fiducia, e alla fine durante gli spettacoli riesce a coinvolgerli e permette a questi bambini, a questi ragazzini, di fare quello che era stato negato loro fino a quel momento, cioè fare i bambini. Il clown è perfetto in questo, la maschera che permette ai bambini di guardarsi allo specchio con ironia funziona, lo spiega lui stesso. Puoi sbagliare, e quando sbagli fa ridere la gente. Allora, partendo dalle loro realtà, abbiamo riso di noi che facevamo il clown che si prostituisce, il clown che è piccato, il clown che non mangia, il clown che è arrabbiato, il clown che ha un piatto in mano e vorrebbe distruggere tutto, ma non si trasforma in giongleria. La vita è un teatro, è un gran circo, penso. Molto drammatico, l'uomo deve lavorare per essere magico e clownesco. Avere a che fare con dei bambini del genere non è facile, hanno sofferto la fame, sono stati abusati, vivono di furti, di violenza, di prostituzione, e poi sono protetti, si fa per dire, proprio con le virgolette, sono protetti da adulti che li sfruttano e che non vogliono che questi bambini diventino indipendenti. Milù non si trova a fare i conti solo con loro, ma anche con gli adulti che li sfruttano e con la polizia che è connivente, perché i bambini sono preziosi, pensate, per il traffico di organi oltre che per la prostituzione, per gli spacciatori. Questo lo sa anche la polizia del nuovo regime, che in qualche modo fa finta di niente. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. Alina, Marian, Rafael sono solo alcuni dei nomi dei cosiddetti boschettari, i bambini sperduti, direi i bambini perduti di Bucarest, quelli che vivono nei cunicoli sotterranei della capitale rumena. Oggi vi stiamo raccontando del clown che dal 92 cerca di portare questi bambini fuori da quei cunicoli. Quella di Milù diventa quasi un'ossessione, una scommessa con se stesso. Lui deve riuscire a cacciare quei ragazzi fuori dai canali. Per tirarli fuori però deve conoscerli davvero, e per farlo lui è disposto a vedere cose che nessuno vorrebbe vedere. Dopo uno spettacolo passa la sera con i ragazzi, scende nei canali. I bambini lo invitano a fermarsi, a dormire con loro. Lui accetta, è curioso, quello che vede lì sotto è spaventoso, ambienti strettissimi, non si respira, con l'aria che puzza di umido, di polvere, di escrementi, è peggio ancora di come viene raccontata fuori, non si vede niente, c'è solo qualche angolino illuminato qua e là da qualche luce, con le persone che dormono ammassate le une sulle altre. Chi non conosce Milo è diffidente, qualcuno cerca di aggredirlo, i bambini lo difendono subito perché è diventato uno di loro, gli danno un cartone umido su cui dormire. Quella sera naturalmente Milo non chiude occhio perché è sconvolto da quello che vede attorno a lui. Queste sono le parole di Rafael, che è un boschettaro, uno dei primi che incontra Milo. Ho incontrato Milud 9 anni fa in stazione. Avevo quasi 13 anni. Quando mi ha visto mi ha detto: «Ciao, sono Milud. Non hai voglia di venire al circo?» Cosa significa circo? Lui parlava in francese. Io allora non lo parlavo. Ma poi nel giro di qualche mese l'ho imparato e lui ha cominciato a parlare rumeno. Ci sono tanti turisti che vengono in Romania e approfittano dei bambini che si prostituiscono perché magari gli è stato promesso un pranzo o dei vestiti. Così avevo paura all'inizio. Poi però ho visto che era un tipo diverso. Mi ha portato al circo ed è stato bellissimo. C'erano giocolieri, acrobati. La storia di Milo può sembrare una fiaba con la sua morale, con un lieto fine già scritto, però è molto, molto più complessa di quello che sembra. Passare la giornata con i ragazzi di Bucarest vuol dire inimicarsi gruppi criminali che traggono benefici da loro, vuol dire mettersi contro la polizia che ha il compito di tenere l'ordine pubblico, vuol dire andare contro un sottosistema nel sistema. E poi, anche una volta conquistata la fiducia di questi ragazzi, non è semplice tenerli a bada, trascinarli in attività come dire costruttive. Insomma, non funziona come nelle favole, che arrivano i buoni e tutti vivono felici e contenti. Non è così. I bambini continuano a drogarsi, la polizia li cattura quando li trova per strada, li riporta negli orfanotrofi e spesso Milo non può fare molto, neanche le associazioni che lo sostengono. È difficile in questo modo mantenere quella fiducia costruita a fatica, perché quando tutto sembra andare bene, un bambino viene arrestato, un altro scappa, uno magari viene minacciato, viene violentato, e allora i bambini tornano a ritrarsi. E tutto questo è frustrante per Milo. Spesso lui si chiede se la sua non sia solo una ostinazione contro le evidenze. Questo è un estratto del film di Pontecorvo, nel quale Milo si confronta con uno dei volontari che lavora con lui. Sai, sono 20 anni che faccio questo lavoro. Sono processi lenti, non li governiamo noi. Tu da quanto sei qui? Poco più di un mese, credo, eh? Sì. E che ti aspettavi? Non lo so, arrivi a tanto così a volte, sei quasi là. Allora dai il mass, fai il possibile e poi ti ritrovi al punto di partenza, capisci? Questo è quello che credi tu. È come se non avessero voglia di cambiare davvero. E come se non bastasse, dopo mesi di lavoro con i bambini arriva un colpo durissimo per Milo. Viene accusato di pedofilia, la polizia lo tiene in stato di fermo, vuole rimandarlo in Francia. Quando arriva in commissariato, peraltro, gli spiegano che non è stata formalizzata nessuna denuncia a suo carico, però 6 bambini sostengono di aver avuto rapporti sessuali con lui nei canali quando andava a dormire. Milo è incredulo, intanto è una roba assurda, poi non ci sono prove che lui abbia usato violenza sui bambini, non ci sono neanche prove del contrario, ovviamente. Questo può comportare il suo allontanamento dalla Romania. Insomma, Milo è stato incastrato. Il fatto che non sia stata sporta alcuna denuncia, insomma, fa pensare all'ipotesi più ovvia: è un'intimidazione da parte dei criminali che vogliono allontanarlo da lì. Però questo è tutto da dimostrare, soprattutto con una polizia quantomeno connivente, se non corrotta. Perde il sostegno delle associazioni con le quali collabora. All'ambasciata francese gli consigliano di far testimoniare i bambini a suo favore. Lui non vuole coinvolgere i bambini, ha paura che i responsabili poi possano prendersela con loro. Insomma, è stato incastrato, ma nessuno se la sente di fare niente. Ha la polizia contro, la criminalità contro, non ha il sostegno dell'ambasciata, gli viene consigliato di tornare in Francia e chiuderla lì. Sotto l'ambasciata però all'improvviso si radunano decine di bambini che reclamano Milo. La polizia cerca di allontanarli, loro rimangono lì per ore fino a che non lo liberano. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. Milo è in Romania da quasi un anno. Dopo le false accuse di pedofilia, lui si trova quasi da solo, ha pochi collaboratori che vogliono ancora aiutarlo ad aiutare i ragazzi di Bucarest. La disillusione sta prendendo il sopravvento, anche la sfiducia. Allora a Milù viene in mente l'idea di mettere in piedi un'associazione tutta sua. I bambini intanto in questi mesi con lui hanno imparato trucchi, giochi, coreografie, si sono esibiti molte volte per strada assieme a lui. Insomma, l'idea è quella di mettere su una compagnia teatrale formata dai ragazzi e di finanziare l'associazione con gli spettacoli. E il primo spettacolo si farà la notte di Natale nella piazza dell'Università di Bucarest. I bambini sono contenti, anche chi non vuole recitare trova qualcosa da fare, perché c'è chi disegna, chi fa le scenografie, chi fa assistenza alla regia, insomma tutti sono impegnati, e questo intanto li tiene lontani dalla strada, dalla colla, dalla droga, ma li fa sentire importanti. Questo è Milù a un evento di Banca Mediolanum del 2012. I primi che mi hanno motivato sono evidentemente i ragazzi, e i primi dopo i ragazzi che mi hanno motivato sono gli educatori, assistenti sociali, medici, che hanno saputo cogliere questo supporto educativo che era l'arte circense. Il circo diventa uno strumento di riscatto, perché il clown è una maschera perfetta attraverso la quale i ragazzi riescono a guardarsi dalla giusta distanza, perché il pagliaccio è grottesco, imita, prende in giro i comportamenti di tutti i giorni, e i ragazzi, non so, imitano con ironia i poliziotti che fanno le facce da duri, o la vecchietta che traballa appoggiata al bastone, ma fanno il verso anche a loro stessi quando fanno i buffoni dopo aver respirato la colla. È un modo per esorcizzare le loro tragedie. Quando arriva la notte di Natale, il pubblico non crede a quello che vede. Quella che a prima vista sarebbe potuta sembrare un'organizzazione amatoriale, improvvisata, si rivela invece per quello che è: una compagnia teatrale vera, ben strutturata. Lo spettacolo lascia tutti senza parole, perché nessuno crede che quelli in scena siano veramente i bambini, quelli che la gente era abituata a vedere per strada a chiedere l'elemosina. Come disse Milù Doghili, non esistono bambini di strada, esistono bambini dimenticati in strada dagli adulti. L'associazione che nasce si chiamerà Parada, come il primo spettacolo di quel Natale del 92, e verrà riconosciuta ufficialmente come ONG dal governo rumeno del 96. Parada non è solo un circo, è una casa per tutti questi bambini sperduti. Abbiamo imparato la dignità, abbiamo imparato la possibilità di sopravvivere quando non c'è più nessuno che ti voglia bene, quando non c'è più nessuno che ti pensa, quando non c'è più nessun spazio aperto per te. E gli spettacoli della Fondazione Parada fanno il giro dell'Europa. Quei bambini che a stento vedevano quella cera sopra i tombini dove vivevano, adesso recitano sui palchi delle capitali europee. Nel 98 per esempio hanno aperto il Carnevale di Venezia, e oltre agli spettacoli la fondazione provvede al sostegno di questi ragazzi, e insieme a altre organizzazioni vengono offerte cure mediche, appartamenti sociali, cioè case popolari. Addirittura per i ragazzi più grandi ci sono progetti per l'inserimento nel mondo del lavoro. Neanche Milù forse si aspettava un successo così grande e un'organizzazione così importante. Lui riceve solidarietà da ogni parte d'Europa. Naturalmente non tutti i ragazzi sono stati salvati, molti vivono ancora lì sottoterra, ma alcuni di loro hanno avuto un'alternativa, e questa non è cosa da poco. L'esperienza in 20 anni per me è difficilissima a resumere in qualche parole. Posso dirvi che qualcuno è andato all'università, qualcuno è andato in galera, qualcuno è morto, qualcuno ha fatto figli, qualcun altro non li farà mai. Milù Doghili non ha sconfitto la povertà in Romania, non ha eliminato il problema dei cosiddetti boschettari a Bucarest. Forse non è neanche vero che il circo e l'arte siano stati per forza dei perfetti antidoti contro la droga, contro la povertà, però il circo è stato in questa storia uno strumento per relazionarsi con se stessi, con gli altri, per scappare da una realtà terribile. Insomma,